24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Paolo Piacenza a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano c'è ancora la Grecia, tensione e scontri ad Atene mentre aumentano i rischi di un default e la Banca Centrale Europea lancia l'allarme recessione nel vecchio continente. In evidenza anche il Portogallo con la nomina del nuovo primo ministro e il nodo immigrazione. Ma parleremo anche di calcio con il tecnico Leonardo che lascia Milano per Parigi e di un festival dedicato alla Via Francigena che coinvolge 4 paesi europei. Partiamo dunque dalla Grecia, tensione e scontri ad Atene, la cronaca di una giornata difficilissima per la patria della democrazia. Giorgio Papandreou dice di essere disposto alle dimissioni per formare un governo di unità nazionale con l'opposizione conservatrice. Un modo per rafforzare l'esecutivo impegnato nell'ennesimo difficilissimo piano di tagli. Ne discute il Parlamento ad Atene. Mentre fuori, in piazza Sintagma, si riuniscono migliaia di persone. È giorno di sciopero generale, il terzo dall'inizio dell'anno. La tensione sale, la folla lancia pietre contro la polizia, gli agenti in assetto antisommossa rispondono con lacrimogeni. 12 persone rimangono ferite. Questo mentre l'Unione Europea prende tempo e non ha ancora deciso se e come fornire altri aiuti al paese sull'orlo del fallimento. Intanto il premio di rendimento pagato dai titoli di Stato greci a 10 anni vola a 1.500 punti rispetto al Bund tedesco, spread mai raggiunto dall'introduzione dell'euro. E 4 banche greche vengono declassate a livello spazzatura. Il rischio, dice Standard & Poor's, è di una fuga in massa dei correntisti. Paola Nania, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Grecia è la punta dell'iceberg di una crisi che in Europa non è ancora finita e questa è di fatto la fotografia della Banca Centrale Europea secondo cui l'Unione non è ancora uscita dalla crisi. Secondo il Financial Stability Review della BCE, il quadro della stabilità finanziaria nell'area euro infatti è rimasto molto impegnativo e per il terzo anno consecutivo dopo la crisi del 2008 i rischi sono ancora prevalenti. La Banca Centrale Europea nota anche come le difficoltà per il programma di consolidamento della Grecia sono cresciute rispetto al rapporto dello scorso dicembre. Intanto la Commissione economico-finanziaria del Parlamento europeo ha approvato con 33 voti a favore, 2 contrari e 4 astensioni la candidatura di Mario Draghi alla presidenza della BCE. Quello del Parlamento europeo è un parere non vincolante ma politicamente importante. Sul caso Grecia i paesi europei si dividono, l'analisi di Vittorio Darold del Sole 24 Ore al microfono di Sebastiano Barisoni. Quando si parla di crisi di questo tipo è sempre una crisi che da bancaria o di tipo economico finanziario diventa una crisi di debito. Nel momento in cui tu hai un problema come quello greco, che è un problema di debito di bond, questi titoli di Stato sono andati a essere comperati da chi? Da banche europee, da fondi di investimento, addirittura dalla stessa previdenza greca. Molte di queste banche sono proprio le banche europee. Ecco perché quando si parla di salvare la Grecia, in realtà si tratta di parlare di salvare le banche europee che hanno trovato che i tassi di interesse greci, non a caso, erano quelli migliori. Allora, a questo punto che cosa si fa? La Germania cerca di dire no, noi non vi salviamo perché il contribuente tedesco è arrabbiato e quindi poi ci penalizzerà. Allora cosa fanno? Cercano di rendere la pillola più semplice dicendo bisogna coinvolgere i privati. Come? Nel momento in cui tu coinvolgi volontariamente i privati è una cosa assurda ed ecco che le agenzie di rating ti tornano e ti dicono stai facendo default. Tu fai continui compromessi, rinvii, così come accadde un anno fa, vi ricordate? Ci fu un rinvio dietro un rinvio, cioè, e alla fine si dovette pagare molto di più. La situazione in Grecia non poteva non condizionare pesantemente l'andamento delle borse europee, pesanti cali in chiusura per Londra -1,04%, Parigi -1,49%, Francoforte -1,25%, ma peggio ha fatto Milano. Seduta all'insegna delle vendite per i listini europei che hanno risentito ancora una volta dei timori sulla Grecia e dei dati macro negativi provenienti dagli Stati Uniti. Milano ha realizzato la performance peggiore, appesantita dai titoli finanziari. Il FTSE MIB ha perso oltre il 2% con UbiBanca e Intesa San Paolo che hanno mostrato cali intorno al 5% circa. Le banche hanno risentito in particolare della possibile revisione al ribasso del rating delle prime 3 banche francesi da parte dell'agenzia Moody's proprio a causa dell'esposizione verso la Grecia. hanno chiuso in controtendenza Tod's più 0,76% e Autogrill più 0,23%, reduci da flessioni consistenti nelle scorse settimane. Nel resto del listino la migliore è stata Montefibre, più 38,8%, grazie alla sigla di un accordo col gruppo saudita SABIC, mentre ha chiuso in netto calo la Popolare dell'Emilia-Romagna. Le azioni hanno ceduto il 6,7% dopo l'annuncio del piano di rafforzamento del patrimonio. Livia Zancaner da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore. Governo in tempi record in Portogallo. A 10 giorni dalle politiche del 5 giugno, il leader del centrodestra Pedro Passos Coelho, vincitore delle elezioni, è stato designato nuovo premier dal capo dello Stato Aníbal Cavaco Silva, in sostituzione del socialista José Sócrates. Piloterà il paese nei prossimi 4 anni attraverso la crisi più grave dalla caduta della dittatura. Intanto Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale, in cambio di un finanziamento di salvataggio da 78 miliardi di euro, hanno imposto al Portogallo un nuovo duro giro di vite. Voltiamo pagina e parliamo di immigrazione. Ancora sbarchi a Lampedusa, dove la Guardia Costiera ha soccorso un barcone con 19 migranti e una pecora. Sul tema immigrazione oggi è stato presentato il glossario multilingue migrazione e asilo, realizzato dall'European Migration Network, che in Italia fa capo al Ministero dell'Interno. Oltre 300 termini da accoglienza, vittimizzazione, tradotti nelle lingue di tutti gli stati europei per migliorare la comunicazione e quindi la collaborazione tra stati membri su questo tema. La versione italiana del volume è stata curata dai redattori del dossier statistico immigrazione Caritas Migrantes, il curatore Antonio Ricci, al microfono di Alessandra Schepisi. Questo glossario è un esperimento in qualche maniera. Per uscire fuori dalla Babele delle lingue comunitarie abbiamo trovato un terreno comune e abbiamo anche lottato, abbiamo anche litigato tra i vari paesi membri, perché ogni paese membro ha una sua legislazione nazionale che comporta specifici significati o concetti. Abbiamo trovato e abbiamo cercato di sviluppare uno strumento per tutti, per i cittadini, per i decisori politici, per gli avvocati. Possiamo fare un esempio di un equivoco che si crea? Ad esempio, nella lingua inglese si è soliti parlare di illegal migration, illegal migrant e così via. In italiano non può essere tradotto come una persona che sia illegale, ma deve essere utilizzato irregolare. E la differenza è che illegale significa che c'è comunque una situazione che vede il cittadino interessato fuori dalle leggi, ma fuori dalle leggi anche in chiave penale. Lo sport, il calcio, un protagonista del calcio italiano, Leonardo, finora tecnico dell'Inter, è sulla strada della Francia, destinazione il Paris Saint-Germain. A Parigi aveva vissuto e giocato prima di scegliere Milano e il Milan. A Parigi ha perso una finale mondiale, quella del 98, segnata dal malore di Ronaldo e dai gol di Zinedine Zidane. Jokef e but! Zidane! E a Parigi Leonardo chiude il cerchio, tornando per la terza volta sotto la Torre Eiffel. Il perché ce lo ha spiegato tante volte in 2 anni di panchina tra Milan e Inter. Perché c'è vita oltre il calcio, oltre il campo da gioco, anche se quel cuoio sferico ti rimbalza ogni giorno dentro al cuore. Troppo stress in panchina, impossibile svincolare un progetto da un gol o da un palo. Nauseabonda l'aria respirata nell'ultimo derby, quando un decennio di onorata militanza milanista è stato cancellato da migliaia di cori contro il Giuda brasiliano. Passi per i tifosi, ma se poi ci si mettono pure quelli con cui hai condiviso le fatiche dello spogliatoio, vedi i cori di Gattuso, allora meglio cambiare aria. Senza rimpianti, da padrone del proprio destino, amante della vita a caccia di emozioni che vanno oltre le righe disegnate dal gesso sul prato verde. Lui del resto ce l'aveva detto, e noi, che di quell'adorabile, maledetto gioco davvero non sappiamo farne a meno, a non credergli fino all'ultimo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Inizia oggi e proseguirà per tutta l'estate il Festival Via Francigena Collective Project, organizzato dall'Associazione Europea delle Vie Francigene e dall'Associazione Civita. Coinvolge 4 nazioni, Italia, Svizzera, Francia e Inghilterra, lungo l'antico percorso che conduceva i pellegrini a Roma e quindi verso Gerusalemme. Marta Cagnola ha intervistato il direttore del festival, Sandro Polci. È un'iniziativa che parte dal basso, tante persone, ognuna delle quali propone la propria specificità, da escursioni guidate di natura più sperimentale. Se entriamo in Toscana troviamo un bel novero di iniziative che da Volterra permettono di utilizzare non solo il trekking ma anche le infierate, per esempio, dei pavimenti di Bolsena, fino alla presentazione di antichi testi, fino a rappresentazioni teatrali, fino a modalità innovative in cui il cammino si intreccia con letture teatrali